Sono il rapper cattivo che pensa in positivo. Fai il rap. Sono il rapper cattivo che leva il negativo. Ribelle, 2010. Non posso lamentarmi del mio fare esaustivo. Non ho mai nascosto la realtà con un video illusivo. Non volo un po' nessun fracco, un piccolo aperitivo. Parlo con il rap io con qualunque cittadino. Ascolto tutti quanti qua, dal più pazzo al più cretino. E ci tengo al futuro di ogni singolo bambino. Sono un rapper cattivo che pensa in positivo. Sono un rapper cattivo che eleva il negativo. Non posso lamentarmi del mio fare esaustivo. Non ho mai nascosto la realtà con un video illusivo. Diciamo c'è il rapper, non mi sono mai presentato, solo in qualche intro sul disco per caso. L'ho fatto per non avere intorno troppo ficcanato, altrimenti la rubrica di parte persone l'ha iniziato. Canto per non fare nessuna discussione, nessuna. Esprimo il mio io in una registrazione. Già. E se per voi il mio flow non va bene, nah. E se siete invidiosi, pace ma, bene. Ma, fuck you. Sono il rapper cattivo che pensa in positivo. Sono il rapper cattivo che leva il negativo. Non posso lamentarmi del mio fare esaustivo. Non ho mai nascosto la realtà con un video illusivo. Trovo divertente quando la gente è falsa e incoerente, gente deficiente che giudica apertamente. Poi chi lo sente questa gente con sembianze di un tuo amico o di un parente, come dice il detto parente serpente. Tralasciando questo discorso ardente, l'altro giorno un deficiente mi fece presente di quanta gente per colpa della mia canzone l'Ilva non va. Per se lavoro là mi sono messa a ridere, questa è sicura, la sera cambia sempre. Sono un rapper cattivo che pensa in positivo. Sono un rapper cattivo che eleva il negativo. Non posso lamentarmi del mio fare esaustivo. Non ho mai nascosto la realtà con video illusivo. Molti marmocchi non mi parlano mai a quattro occhi, hanno paura di me, si vede dai loro occhi. Altri invece mi giudicano da lontano, quando a malapena sanno come mi chiamo. Seguono la massa impastati col capitano, ma meno freschi di me se confronto alla pasta del capitano. Mi hanno chiamato Capultras, mi hanno ripetuto Capultras, ma in dialetto gli ho ripetuto: mi sono un rapper e in da vostra kepa non c'è trase. Ciuro pitat faz nudan canu paia non manca kido della razza. E poi vadim c'è un Capultras e cinda kepa te trase. E te faz tunna tunna come un combat. Ci ha capito se stesse non seguisse a massa. Non va già in un festa se stesse in da casa. Caumet che in da casa tutta la notte de in de la pasta. Sono un rapper cattivo che pensa in positivo. Sono un rapper cattivo che eleva il negativo. Non posso lamentarmi del mio fare esaustivo. Non ho mai nascosto la realtà con un video illusivo. Non volo un po' nessun fraco, un piccolo aperitivo. Parlo con il rap io con qualunque cittadino. Ascolto tutti quanti qua, dal più pazzo al più cretino. E ci tengo al futuro di ogni singolo bambino.